Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Attivato il teletrasporto, eccomi atterrato a bordo dell'astronave Enterprise. Un caro saluto che vi giunge da parte di Andrea per un'ennesima diretta radiofonica, 16 minuti primi dopo le ore 23. Questa sera siamo anche in diretta su Periscope in versione video, quindi se avete voglia potete vedermi anche lì. Insomma, non è che sia un gran vedere, non è che c'è in onda Belen Rodriguez, diciamo così. Allora, spieghiamo un attimo che cos'è Star Trek in versione appunto 2016. È una trasmissione radiofonica che andava in onda nel 1999 su Radio Inchieste Vigevano, ora l'ho ripresa e l'ho adottate, diciamo così, al web. Una grossa novità: mentre siamo in diretta radio su Spreaker e anche sul mio sito www.startrekonline.org, stasera siamo anche in diretta invece su Periscope, quindi mi potete seguire anche lì se volete vedere, insomma, la mia faccia. Sono in diretta su Periscope per un paio di giorni, rimane il video, poi viene cancellato in automatico. Allora, che cos'è Star Trek? Star Trek è una trasmissione principalmente musicale, dove parliamo di musica, dove ascoltiamo musica, dove a ruota libera il conduttore parla. Si può parlare di qualsiasi argomento, se avete voglia, se avete pazienza, insomma, di seguirmi. Quindi mando un saluto anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci guardano e ci vedono su Periscope. E niente, com'è che prosegue la vostra giornata? Mi auguro che vada tutto bene, insomma, io non male, diciamo così, non mi lamento. E questo invece è il disco di apertura per questa serata. Si ritorna indietro nel tempo, la bella musica house di circa 10 anni fa. Pezzo d'inizio che dedico a mio carissimo amico della provincia di Piacenza, che apprezza, insomma, questa musica e che finalmente domani rivedrò dopo tanto tempo. Sono felice, insomma, di rivederlo. E la prima canzone la dedico per l'appunto a te, Deep Swinger. Il titolo del brano è In the Music. E qua invece siete in the Star Trek. Siete a bordo dell'astronave Enterprise. Monella! Quella. Monella! Ma chi è che si intromette? Monella, sei una monella! Vabbè, veramente sono sei uno. Sei una monella! Veramente sono uno. Comunque, Deep Swinger. In the music. Soul in the music. I got the love Deep Swing. Ma quanto era bello questo disco, veramente. Siete l'ascolto di Star Trek, viaggio nella storia della musica, sempre in compagnia di Andrea. Prima canzone che dedico a mio carissimo amico, che vabbè, è meglio non fare i nomi perché sapete, insomma, è casino, è un nostro segreto, diciamo così. Comunque mando un caro saluto a questo mio amico della provincia di Piacenza, che finalmente domani rivedrò, no, anzi sabato rivedrò in una bella serata insieme. Si sta avvicinando il weekend, dai, se volete andare a interagire con la trasmissione lo potete fare o direttamente su Spreaker Radio lasciando un messaggio direttamente online sul sito, oppure potete anche scriverci un'email, andate sul sito www.startrekonline.org o anche su Periscope, questo network che permette la trasmissione video, quindi mi vendono i video su Periscope, dove si possono mandare i cuoricini eccetera eccetera. E con questo disco mi sembra giusto ancora una volta ricordare alcune delle gloriose grandi discoteche di un tempo che purtroppo ci hanno lasciato. Come non citare, lo facciamo spesso, la disco XO di Cappella Cantone Cremona, insomma, dove si andava sempre a divertirsi. Come non citare lo scacco matto di Fiorenzuola d'Arda, sempre a Piacenza. Anzi, se ascoltando questa musica anche voi magari non avete più 20 anni come sottoscritto, beh ragazzi, vi confesso che domani mi arriva la macchina, ho passato la scuola guida, dai, sto scherzando, dai, permettetemi un attimo di scherzare. Bene, se anche voi magari nella vostra città, ascoltando il podcast o anche la diretta, vi ricordate delle discoteche stratosferiche dove andavate con gli amici, volete ricordarlo insieme a noi, facciamo questa cosa carina, scriveteci magari il nome della disco, dov'è che andavate, da tutta Italia e anche da tutto il mondo, perché insomma vi ricordo che Star Trek sta sempre cercando un'emittente radiofonica locale. Io mi sto battendo per trovare insomma una radio americana o inglese che trasmetta questo programma, perché in Italia vedo molta terra bruciata per quanto concerne l'etere locale, praticamente i network acquistano tutto. Hanno raso il suolo le FM, ci vogliono far credere che esistono ancora le radio locali, ma non è vero, perché insomma i network hanno acquistato moltissime frequenze. Quindi se c'è qualcuno, qualche editore anche di radio americana che comprende la lingua italiana e sta ascoltando questo personaggio, se può piacere Star Trek è disponibile per essere trasmesso. Il download è free, è libero, l'ho reso libero per tutti, quindi fate voi. Ora arriva il primo tuffo nel passato e solitamente ascoltiamo della musica, non so, magari genere dance, pop, magari un po' meno rock, però c'è spazio anche per ascoltare i ricordi dei gloriosi telefilm americani, per esempio i ricordi dei grandi film italiani, comici, thriller, polizieschi eccetera eccetera, e c'è anche spazio per ascoltare le colonne sonore di alcuni show mitici italiani degli anni 60, 70, 80. Quest'oggi per voi un bellissimo vinile del 1982. A cantare questo vinile, che è famosissimo, praticamente si può dire storia della musica, vabbè, non è proprio, dico, musica impegnata, è musica, diciamo, non minore, però fa parte di show televisivi. Ecco, ascoltiamo questo vinile del 1982 cantato da Corrado Mantoni, niente di meno che. Il titolo del vinile è Carletto. Carletto, Carletto, e sì, buono. Ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là, questo non si dice, questo non si fa, Carletto, non picchiare la sorellina, non chiudere la mamma nella cantina, Carletto, lo sai che fai sempre guai, e allora papà ti castigherà. Io che sono Carletto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta per fare un dispetto, che bello scherzetto per mamma e papà. Carletto, Carletto è sì buono. Lo sai che i bambini buoni non devono disubbidire al loro papà, eh? Oh! Carletto, non rubare la cioccolata, non dire più alla nonna che è ingrassata. Carletto di qua, Carletto di là, questo non si dice, questo non si fa. Carletto, leva i pesci dal frullatore. Carletto, togli il nonno dall'ascensore. Carletto, lo sai che fai sempre guai. E allora, papà, chi castigherà? L'ha fatta nel letto, bello scherzetto. Era Corrado Mantoni con questo vinile del 1982, Carletto. Ora giriamo il lato del vinile, perché questo è un 45 giri, mettiamo sul lato B dove c'è la versione strumentale appunto di Carletto. Vediamo se riesco a girarlo. Ok, ok, è andata, la teniamo come base. E proprio una curiosità per quanto concerne questo brano è il titolo Carletto. È appunto un brano musicale scritto da Romano Bertola e Stefano Jürgens, inciso nel 1983 da Corrado e dal piccolo Simone Jürgens, figlio di uno degli autori di fiducia di Corrado. Il brano, una semplice filastrocca basata su alcuni moniti espressi da un padre, Corrado, al proprio figlio rispettoso, Simone, appunto. Fu presentato in televisione nelle varietà di Rai 1 Fantastico 3, riscuotendo un inatteso successo a livello di vendite, raggiungendo ragguardevoli posizioni nella classifica italiana dei singoli, pensate un po', dopo aver debuttato al primo posto nella settimana del 15 di gennaio del 1983, rimanendovi, pensate un po', per quasi due mesi, fino a quella del 12 marzo, sempre di quell'anno. Bene, bene, come vedete, insomma, un tempo queste canzoni avevano un vero e proprio mercato, oltre alla musica classica, i grandi autori come possono essere Battisti, De André, per quanto concerne il panorama italiano, c'erano anche queste canzoncine simpatiche e allegre che facevano per lo più da colonna sonora a trasmissione della Rai e anche dei programmi Mediaset. Ricordiamo Corrado, questo grande presentatore bravissimo, ha fatto una gavetta incredibile. L'unico dei tre o quattro presentatori che è stato assunto, diciamo così, a tempo pieno dalla Rai negli anni 60. Infatti lui si vantava di essere, mi sembra, assunto come impiegato, quindi era l'unico che percepiva uno stipendio proprio con anche i contributi, perché Mike appunto si lamentava invece che la Rai gli faceva sempre dei contratti a scadenza, come facevano in quegli anni, erano contratti miliardari. Però Corrado era uno dei pochi, insomma, assunti dalla Rai. Poi è passato Mediaset, ha fatto tanti show divertenti che li guardavo sempre quando ero piccolo. Potrei citarvi, vabbè, il mio preferito, che era Il Pranzo Servito. Chi non si ricorda Il Pranzo Servito? Immagino che moltissimi di voi lo ricorderanno con estrema simpatia, estremo affetto. E ora, sempre molto molto retro, ci spostiamo negli anni 70, direttamente dallo studio 54, mentre sono 31 minuti primi dopo le ore 23, questa è Star Trek. Bruce Johnston, un po' di disco music, siete con Andrea on the mic e questa è Star Trek. We'll be right back. senti come gira questo basso. Benvenuti a tutti su Radio Milano International. Dai, sto scherzando, insomma, abbiamo fatto un piccolo tuffo negli anni 70. Bruce Johnson con Pipeline, un gran disco, veramente, di disco music. L'ho ascoltato casualmente su YouTube, ho detto fermi tutti, è il mio, e allora non potevo che non trasmetterlo qua a Star Trek. Mentre sono 34 minuti primi dopo le ore 23, sempre in diretta con Andrea, ricordo ancora il sito del programma www.startrekonline.org. Vi trovate, insomma, un po' tutto quello che vi può interessare sulla mia persona. C'è il blog dove che posto principalmente delle mie foto. Poi c'è proprio lo streaming diretto per ascoltarci su Spreaker e anche su Periscope. In questo istante siamo anche in diretta su Periscope, quindi mandiamo un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno vedendo proprio con la mia faccia su Periscope. E dopo questo bel brano ritorniamo ancora a parlare di musica da tema, in specifico di musica easy listening italiana degli anni 60 e degli anni 70. Ora ascoltiamo un bel brano e poi purtroppo avremo l'ultima canzone che concluderà Star Trek per questa notte. Comunque non disperate, poi torniamo, cioè non è che scappiamo. Per voi ho un brano meraviglioso, veramente. Qua siamo a livelli sublimi di musica easy listening italiana. The more I love you, more. Looking at each other, going in the same directions, just like the oars that pulls out is your name. Between my breaths, you spend the night. This is all I'm gonna say. More. Loved you much more. Loved you. Kisses of life in a day of death. Stubbornness, how does it stop? Father, please forgive us. No, this just can't be for nothing. Something's gotta go somewhere. We had our dreams always there. Everything and nothing. Sure enough, gonna help you take. Questa canzone è veramente stupenda. Non so, magari se dovete organizzare una festa a casa vostra con qualche amica, qualche amico, qualche amante, anche perché no, ricordate Swan Robinson, The More I Love You More. E a quel filone di musica, insomma, anni 70 principalmente, che accompagnava alcune pellicole italiane. Infatti precedentemente l'ho identificata come una canzone di musica easy listening, e più specifico il mitico beat di Cinecittà, come lo definisco io. E purtroppo, ragazzi, siamo giunti al termine. Teniamo sotto magari questa base, perché arriva l'ultima canzone in scaletta per voi, quindi purtroppo ci dobbiamo congedare. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato sino a quest'ora. Saluto anche tutti gli amici e tutte le amiche che mi ascolteranno in versione podcast. Saluto anche chi ha intenzione di scaricare magari la trasmissione nei prossimi giorni, quindi potete fare tranquillamente il download, perché l'ho reso libero per tutti. Quindi, che devo dirvi? Passate un buon fine settimana, un sereno weekend. Domani è venerdì, quindi dai, ancora domani, per gli amici, insomma, che fanno un lavoro classico, ancora domani. Non l'ho mai fatto, no? Però vorrei mandare un saluto a una categoria veramente importante per quanto concerne il nostro territorio e la nostra nazione. Un saluto a tutti i medici e a tutto il personale infermieristico, perché magari mentre noi siamo in giro a divertirci, loro veramente svolgono questa professione con amore, veramente tenerezza, non avendo orari, lavorano giorno e notte. Quindi un abbraccio ai medici e al personale infermieristico di tutti gli ospedali italiani, nonché proprio tutto il personale che lavora negli ospedali. Ok, noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi con Star Trek. Sono 39 minuti primi dopo le ore 23, quindi abbiamo ancora all'incirca 5 minuti per ascoltarci ormai il disco della Buonanotte. E ragazzi, che disco che ho scelto! Secondo me è una delle canzoni più belle della musica anni 80. Se vi piacciono magari le canzoni un po' più romantiche, diciamo così, per concludere la serata a tema dopo un buon pranzo, come ho detto in precedenza, con la vostra amica, il vostro amico, dai, la vostra amante, non so come dirvi, dai. Questa canzone secondo me calza proprio pennello. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e per i prossimi minuti arriva il mitico Angelo. Buonanotte a tutti da parte di Andrea e ora il grandissimo Angelo. Ciao bella gioia! Let me say that we're in this love together.